Grazie anche per avermi invitato qui. In realtà mi hai attribuito un po' troppe competenze, no, ma veramente. Però mi hai anche dato un'idea di inizio, parlando di De Gouges, no? Perché nella dichiarazione dei diritti della donna, no? Di De Gouges, c'è una, che è in qualche modo una parafrasi della dichiarazione del 1789, no? Certo. Riprende esattamente la dichiarazione volgendo gli stessi articoli, gli stessi articoli, le stesse previsioni, però includendo le donne. Però a un certo punto nell'elenco dei diritti De Gouges aggiunge un surtout, cioè i diritti della donna sono la libertà, l'eguaglianza, mais surtout la resistenza all'oppressione. E questa è una cosa, no? Cioè, più, in un certo senso, più degli altri, la resistenza all'oppressione. È qualcosa che si aggiunge rispetto alla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Ecco, potrei dire che il mio intervento di oggi potrebbe andare sotto questa frase iniziale di De Gouges. Quindi, migliore introduzione. Non potevi trovarla. Non ci eravamo messe d'accordo. No, anzi, io sono arrivata qua senza averla più sentita, sì. Ci sono sentita a settembre, credo, quando appunto mi hai chiesto di fare questo intervento. Ecco, quando poi tu mi hai chiesto di fare questo intervento, io avevo capito che ciò che ti interessava fosse che io parlassi soprattutto di problemi, diciamo, di differenze religiose, culturali, all'interno del mondo femminile. E se non ricordo male, noi abbiamo al telefono, anche l'unica conversazione che abbiamo avuto, abbiamo un po' discusso del termine da utilizzare, perché inizialmente tu mi avevi detto identità, differenze, gru, e io dicevo no, identità è un concetto che insomma non mi va, è troppo discusso. D'altra parte parlare di multiculturalismo, parlare di, insomma, alla fine no, facciamo appartenenza. Allora, perché appartenenza? Perché appartenenza immediatamente manda, diciamo, rimanda da una dimensione di gruppo ad una dimensione che è allo stesso tempo individuale e di gruppo. Perché l'appartenenza è un'appartenenza che è oggettiva e soggettiva insieme. Quello che a me interessa quando mi occupo di queste cose, e diciamo il mio approccio, posso dirlo subito, insomma, non è un approccio di tipo comunitario come appunto alcune persone che qui sanno bene, ma è proprio più incentrato sul, diciamo, benessere, anche se questa parola, anche questa, è difficile ormai usare delle parole perché sono tutte talmente usurate, no? Vabbè. Della persona. Quindi io parlando di appartenenza piuttosto che di gruppo, di comunità e così via, voglio proprio far riferimento a quanto una differenza culturale, religiosa, tradizionale, come volete, sia rilevante per una differenza che, diciamo, deve essere in qualche modo presa in carico dal diritto o dalle politiche pubbliche. Quindi, appartenenza proprio per evitare, come dire, per uscire da questa specie di impasse, no? In cui si ritrova il dibattito comunità, individuo e così via, no? Cioè cercare un senso che sia soggettivo e però anche in qualche modo faccia riferimento ad altro. Allora, la qualità del pubblico mi sembra che mi permetta di sorvolare su tutta una serie di introduzioni che pensavo di fare sui diritti. Però dirò semplicemente che, per esplicitare anche in questo caso la mia posizione, io credo nei diritti e credo anche nei diritti per le donne, soprattutto per alcune situazioni. Dico che credo nei diritti perché, come sapete, i diritti sono un concetto, uno strumento molto controverso, sono stati criticati dal punto di vista, diciamo, extra-occidentale, sono stati fortemente criticati nel pensiero femminile, della teoria femminista, sono stati denunciati addirittura come, non solo come fintamente universali, no? Espressione in realtà di un modello di relazioni particolari, sessuate, quindi inadatti ad esprimere veramente i bisogni e gli interessi, i valori di tutte le persone. Ma sono stati anche attaccati in quanto proprio strumenti essi stessi di imperialismo culturale. Ora, in Italia, in particolare, una parte del pensiero femminile si è ritirata dal diritto, dai diritti, anzi, li ha fortemente messi in discussione, nei paesi anglosassoni un po' meno, direi che comunque a partire dagli anni 90 in generale è ripreso un po' l'interesse per i diritti e per il diritto, anche proprio come strumento di trasformazione sociale. Questa rivalutazione dei diritti è avvenuta in gran parte sulla spinta del femminismo internazionale, no? Cioè costituirsi di reti di donne che magari vengono in parte da paesi in cui l'eguaglianza giuridica, se anche è diciamo ufficialmente dichiarata, anzi molto spesso non è neanche giuridicamente sancita, ma comunque assolutamente inesistente nel diritto positivo, dicevo, la costituirsi di reti di donne che appunto dei diritti sentono ancora in qualche modo di potersi riconoscere. Ora, è chiaro, noi ne abbiamo amplissima esperienza, che i diritti non bastano, che nonostante l'eguaglianza nei diritti ci sono delle, diciamo, l'eguaglianza effettiva non è raggiunta, le forme di oppressione, di violenza, di discriminazione delle donne anche in società, e direi forse in particolare in società come quella italiana attuale, sono continue, magari assumono vesti diverse da quelle precedenti, ma direi che anzi si può constatare una ripresa, no? Di forma, pensate a tutto il problema dell'attacco all'autodeterminazione sul corpo delle donne, tutto il problema della rappresentazione mediatica delle donne. Quindi, ecco, in questo contesto io credo che i diritti funzionino ancora in qualche modo come un baluardo, se volete. È chiaro che i diritti non sono sufficienti, la discriminazione e l'oppressione sono radicate nella società, il cambiamento deve essere tutt'altro, è chiaro anche che i diritti possono essere sbagliati, no? Secondo la formulazione di Wolgast, che ha scritto uno dei saggi più lucidi, più chiari in proposito, sui limiti proprio dei diritti. È chiaro che non tutto può essere risolto con i diritti, che possiamo fiancarli con altre prospettive, come quella della cura, come quella della capacità in ambito internazionale e così via. È chiaro che ormai sappiamo che dobbiamo in qualche modo evitare le insidie della parità, potremmo dire, no? Quindi da un lato le insidie dell'eguaglianza formale, che ci dice, bene, la competizione aperta, siete tutti uguali, poi in realtà sappiamo benissimo che le condizioni della competizione non sono pari, le insidie dell'eguaglianza che invece, dell'eguaglianza diciamo cosiddetta sostanziale, perché? Perché porta ad assimilare le donne a categorie svantaggiate, quindi deboli, con tutto ciò, con tutto il dibattito che c'è intorno, pensate appunto al problema delle quote, le cosiddette quote rosa, e così via. Però il problema di fondo è che molto spesso i diritti anche riconosciuti, quindi giuridicamente potremmo dire tutelati, sono in presenza di grandi esperte, quindi sono un po' in imbarazzo a parlare di queste cose. Comunque, no, io ho letto le vostre cose, quindi non attribuisco a casa. Comunque, vabbè, diciamo che Ciò che manca spesso è la giustiziabilità dei diritti, no? Cioè, quindi la possibilità di avere dei canali istituzionali a cui ricorrere in caso di violazione. Giustiziabilità dei diritti, però, da sociologa del diritto, direi che non significa soltanto poter avere i canali istituzionali, ma significa potervi accedere effettivamente. Quindi questo significa tutta una serie di condizioni materiali, ma non solo materiali, ma anche morali, anche culturali, in un certo senso. E significa in qualche modo anche avere una cultura dei diritti. E per questo che, diciamo, in modo un po' polemico, io direi che è importante ancora adesso credere di avere dei diritti. Certo, i diritti delle donne non sono necessariamente gli stessi dei diritti dell'uomo. Non sono gli stessi storicamente, no? Lo sappiamo bene, la storia dei diritti della donna è una storia molto diversa da quella dei diritti dell'uomo. Hanno seguito percorsi, tappe, espressioni diverse. Nella dichiarazione di Pechino, no? Ha lanciato in qualche modo questo slogan: i diritti delle donne sono diritti umani. Questo sembra quasi una banalità, ma vabbè, certo, le donne sono esseri umani, i diritti delle donne. No, in realtà è l'esito di un lungo percorso, perché come appunto io qui ho ripreso una citazione di Catherine MacKinnon, che forse alcuni di voi conosceranno, che scrive chiaramente: i diritti umani non sono mai stati diritti delle donne, non sono mai stati diritti delle donne in teoria, né nella realtà, né giuridicamente né socialmente, né sul piano interno né sul piano internazionale. Quindi questo perché? Chi non lo sapete, molto radicale. Vabbè, comunque, però perché ho fatto questa citazione? Per dire, certo, io penso che i diritti siano ancora uno strumento utile, penso anche che sia molto importante attingere, far riferimento a quello che è stata tutta la critica, la riflessione femminista, la decostruzione dei diritti e la ricostruzione in qualche modo di categorie che possano aiutare ad utilizzarli diversamente, a formulare degli altri appunto diritti. Bene, questa era una piccola premessa sui diritti. Appartenenze, secondo punto. Dunque, come sono i tempi? Guarda, tu in genere noi diciamo 40 minuti, vabbè. Insomma, poi come vuoi tu, Sì, per avere un po' un'idea. Sì. Va bene. Allora, appartenenze. Ho detto che penso sia essenziale fare riferimento alla riflessione femminista sul diritto, sui diritti, alle critiche e anche alle riformulazioni che ne sono state fatte. Beh, di questa riflessione fa parte la consapevolezza che non esiste un unico punto di vista delle donne. Fa parte la consapevolezza che le donne reali sono molto diverse tra di loro, fa parte la critica ad un modello dominante di soggetto, in particolare di soggetto titolare di diritti, la critica ad un'idea di soggetto autonomo, di soggetto razionale, capace comunque di rivendicare i propri diritti, avulso da un contesto, e la costruzione invece di soggetto, cosiddetto soggetto astratto, no? Titolare di diritti, la costruzione invece di un soggetto situato, cosiddetto, radicato nelle specificità individuali, inserito in contesti relazionali, i cui bisogni sono in gran parte determinati proprio dalle sue appartenenze. Allora, le appartenenze, intese come appunto appartenenze di gruppo, appartenenze, diciamo, riferimenti a delle collettività, ecco, per essere più. In realtà, nella storia, almeno nella storia delle donne che conosciamo, le appartenenze di nascita soprattutto, sono state fonte di violenze, di discriminazione, di oppressione. E mi riferisco soprattutto alla famiglia, è questo. Mi sembra che sia difficile negarlo. Il riferimento che è stato fatto prima alla sfera pubblica e alla sfera privata, no? E detto per inciso, sono pienamente d'accordo sul fatto che è sempre più difficile tenere distinte queste due sfere, anzi mi sembra che la compenetrazione sia sempre più frequente e decisiva, ma questo è un altro tema. Dicevo, questa anche la separazione tra una sfera pubblica maschile e una sfera privata femminile, no, ha avuto anche la funzione di costituire la famiglia come una specie di giurisdizione autonoma in cui lo Stato deve entrare con molta cautela e in qualche modo governata da delle consuetudini, governata da dei rapporti di potere interni, da degli equilibri di alleanze interne. Anche giuridicamente, no, la famiglia ha funzionato per molto tempo proprio come il bene della famiglia, il bene dei figli, proprio come giustificazione della discriminazione e della soggezione femminile, della compressione dei diritti, in quanto mogli e soprattutto in quanto madri. Beh, la Pacciotti sa bene che appunto per molto tempo le donne sposate avevano meno diritti, anche solo di disposizione dei loro beni, rispetto alle donne. Va bene, per molte donne le appartenenze di nascita, cioè la contesto in cui nascono, è ancora decisivo per i loro percorsi di vita. E ciò riguarda gran parte delle donne nel mondo, lo è ancora anche per noi, intendiamoci, però diciamo che da un punto di vista religioso, culturale, tradizionale, per alcune donne lo è di più. E lo è per delle donne migranti o discendenti di migranti, che appunto sono i casi su cui si richiama la nostra attenzione maggiormente quando affrontiamo questi temi. Nella cronaca quotidiana, Simonetta mi guarda, perché adesso qui tocco un suo tema fondamentale. Allora, però, insomma, è inevitabile che constatare che quando emerge un caso di violenza, di oppressione giustificata in base a norme tradizionali, a consuetudini, talvolta anche a norme religiose, quasi sempre riguarda una donna. È vero che compressione dei diritti individuali all'interno di comunità migranti si hanno anche nei confronti degli uomini, basta pensare, non so, ai diritti dei lavoratori cinesi, ecco, no? Ci sono delle ricerche che mostrano come ci sono. Però, non, soprattutto quando vengono da un contesto familiare, in genere è la donna, diciamo, quella che subisce anche qui. Comunque diciamo che in una visione consolidata delle pratiche consuetudinarie come i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali, la segregazione domestica fino ad arrivare agli omicidi d'onore, sono pratiche fondate appunto su delle norme giustificate, su norme consuetudinarie e ovviamente fortemente lesive dei diritti. A questo proposito mi viene in mente che l'altro ieri a Milano hanno presentato un inizio di ricerca sui matrimoni forzati che mi è sembrato molto interessante, anche se appunto è solo un inizio, una ricerca pilota. In Emilia-Romagna è stata fatta questa ricerca perché appunto ha messo in luce intanto come esistono e siano tutto sommato abbastanza diffusi. In Gran Bretagna c'è molta più letteratura, c'è addirittura credo un osservatorio di discussione addirittura sui casi di matrimoni forzati, ma anche in Italia. Ma quello che mi sembrava interessante è che è emerso subito nel dibattito che c'è stata in presentazione di questa ricerca una posizione di studiosi della migrazione che maschi su questo detto che diciamo tendeva a negare la rilevanza del fenomeno, no? Cioè tendeva a dire sì, vabbè, però insomma stiamo attenti perché poi criminalizziamo, poi è troppo facile in questo contesto, come dire, aprire a dei discorsi di tipo razzista, però in fondo non sono molti casi, però vediamo, però c'è la religione, però magari sono contente e così via. Ora, è chiaro che la pratica anche di intervento sociale fa riferimento solo a coloro che chiedono aiuto, e questo anche ci sarebbe da discutere, ma insomma, vabbè. Però, pur con questo limite, a me sembra che un atteggiamento di questo tipo, come secondo me c'è stato anche in parte sulle mutilazioni genitali femminili, modificazioni genitali femminili, chiamiamolo come volete, in Italia, sia da parte soprattutto della sinistra, perché poi viene un po' pericoloso. Perché? Perché è un atteggiamento che tende a dire, vabbè, è un tipo di situazione che è molto complessa. Noi non sappiamo come affrontarla, ed è vero, effettivamente. Quindi facciamo finta di niente. Finché non scoppia, lasciamo che se la gestiscano tra di loro. Ecco, questo tipo di... qui c'è anche un'alleanza di un discorso di tutela della libertà religiosa, di un discorso quindi che viene spesso da ambienti cattolici, con appunto invece un discorso antirazzista, con un discorso di tipo, diciamo, multiculturalista també. Tutte istanze più che, come voglio dire, legittime, che io apprezzo. Però mi sembra che in casi come questo, l'ho capito chiaramente che gli stava succedendo questo, a fronte dell'emergere di questa cosa, mi ha lasciato un po' perplessa, ecco. E, vabbè, comunque questo era un inciso, perché appunto parlando dei matrimoni forzati, mi è venuto in mente questo caso. Però è importante questo, a proposito delle appartenenze, anche. Sì, a proposito delle appartenenze, ma anche, diciamo, a proposito della reazione, no? Che, ecco, dell'atteggiamento politico a fronte di queste cose, che effettivamente è molto difficile. Va bene, comunque, insomma, diciamo che questi casi, no? Casi di pratiche chiaramente discriminatorie, chiaramente oppressive, in realtà sono poi alla fine solo dei casi estremi. Tra l'altro noi conosciamo solo i casi delle donne che si ribellano e che spesso vengono punite perché si sono ribellate, punite perché magari anche con l'omicidio. Perché invece molti sono i casi di donne che semplicemente vivono con maggiore o minore sofferenza, questo non si sa, ma insomma vivono tranquillamente la loro vita al di sotto di questo, accettando. Questo è consuetudine. Non solo, ma non si tratta soltanto di questi casi estremi, nel senso che per molte donne, quelli che sono i diritti classici di libertà, come la libertà di circolazione, la libertà d'espressione, la libertà religiosa, la libertà di progettare una propria vita, sono diritti quotidianamente compressi non tanto da organi dello Stato, come è nella tradizione liberale di concettualizzazione della libertà negativa, diciamo, ma dalla famiglia. Quindi non tanto da poteri pubblici, ma da poteri privati. E questo è stato un tema anche affrontato nella teoria giuridica femminista, che ha in qualche modo quindi richiesto una riformulazione dei diritti di libertà e degli strumenti per dare attuazione ai diritti di libertà, proprio tenendo conto che per le donne la violazione viene soprattutto da questi ambiti. E tra l'altro anche il Consiglio d'Europa nel 2006 ha detto chiaramente che, ha espresso delle preoccupazioni per il vuoto giuridico constatato in materia di protezione dei diritti della persona, delle donne migranti rispetto al principio di eguaglianza tra le donne e gli uomini nelle comunità immigrate. Cioè, quindi il vuoto giuridico, quindi non tanto, proprio quindi assenza di norme adeguate. Vabbè, ma quali sono queste norme adeguate? Quali potrebbero essere? Qui naturalmente entriamo in un campo molto difficile. Il diritto d'uscita, no? Non esiste, insomma, no? È così, come dire, un'astrazione della letteratura multiculturalista, non esiste, perché non si sa bene cosa voglia dire, no? Non è una scelta di allontanamento. Intanto vuol dire dare a una persona non solo un'opzione teorica, ma dare gli strumenti materiali per allontanarsi dalla propria famiglia, dalla propria comunità. E poi vuol dire una scelta di allontanamento dalla propria famiglia, dalla propria comunità, a dei costi che una persona non sempre ha voglia di sopportare. Non è... Quindi, no, ha dei costi in termini affettivi, semplicemente. Per cui molto spesso le scelte che si fanno sono scelte di compromesso, non sono scelte di rottura, ma semplicemente perché quello che una persona percepisce come proprio interesse è, alla fine, in un contesto dato, il compromesso. Quindi il problema, in qualche modo, è modificare il contesto di scelta della persona. Non solo, ma le cose non sono neanche così semplici, nel senso che io finora ho parlato delle appartenenze, in qualche modo, come rappresentando alcune donne come vittime, no? Come vittime delle famiglie, come vittime delle comunità, e naturalmente sappiamo benissimo che non è così. Molto spesso siamo di fronte a persone che invece sono ben felici delle loro appartenenze, addirittura casi di rivendicazione di pratiche, di norme che noi da un altro punto di vista sono viste come oppressive, discriminatorie, persino casi di modificazione genitale femminile rivendicate come elemento di identità, di appartenenza. Quindi l'appartenenza ha anche una dimensione soggettiva, no? Una dimensione di adesione, ecco, se non di scelta, in senso appunto razionale e così via. Queste vittime non chiedono aiuto, anzi, lo respingono l'aiuto, anzi, no? Lo subiscono, lo vivono come un'ingerenza. E qui naturalmente si pone un problema, così direi classico, nella prospettiva liberale, cioè il problema del paternalismo, dell'antipaternalismo. È possibile intervenire su una scelta di una donna adulta in nome del suo bene? È chiaro che quando stiamo parlando di minore il problema non si può, ma quando parliamo di adulti il problema si pone come. Sappiamo benissimo che esiste tutta una letteratura di donne di altre tradizioni che ci dice: no, noi preferiamo andare in giro con lo chador, e voi invece che rispetto a voi che andate in giro seminudo, insomma, o così via. Per quale ragione ci contestate un certo tipo di interventi quando voi fate degli altri interventi che sono interventi sul corpo con ragioni estetiche o anche di trasformazione, trasformazione del sesso, che sono molto più invasivi, molto più pericolosi delle cosiddette appunto mutilazioni genitali femminili. Cioè, su questo c'è anche. Allora, questo effettivamente è poi uno dei punti più difficili. Più difficili anche proprio nella prospettiva di una prospettiva, diciamo, femminista, perché se c'è stato un traguardo importante nella storia delle donne, diciamo, delle donne almeno nei paesi europei, diciamo occidentali, è stata la costituzione di sé come soggetti capaci di decidere sul proprio corpo, sulla propria vita, indipendentemente dai padri, dai mariti e anche dai legislatori, in qualche modo. Però fa parte anche della riflessione, della consapevolezza del pensiero delle donne, appunto la consapevolezza che le scelte individuali non sono sempre scelte libere, anche se formulate come tali, ma se sono scelte che sono radicate in contesti di oppressione che sono radicate in interiorizzazione di ruoli subordinate, forse non possono essere assunte come scelte libere, no? Questo è il problema della preferenza adattiva, il vecchio problema. Il vecchio problema però è esattamente quello in cui spesso ci troviamo di fronte. Ecco, inoltre, non va trascurato che spesso le costruzioni identitarie, no? Queste appartenenze, queste collettività, sono qualcosa di costruito dall'esterno, come si sa bene, cioè sono delle etichette che non corrispondono alla percezione delle persone e soprattutto non corrisponde alla percezione delle persone l'inconciliabilità di queste appartenenze. Cioè, voi sapete che ormai il femminismo musulmano è una corrente di studi ampia, diversificata e molto interessante, ma è proprio un'iniziativa su questo. E però appunto il punto di partenza è proprio quello lì, cioè il rifiuto di dover scegliere tra due appartenenze, quella femminista e quella musulmana, che sono invece in genere viste in qualche modo come incompatibili, in contrapposizione. Quindi molto spesso dalle persone viene proprio questa richiesta di strumenti per conciliare la pluralità di appartenenze, mentre la tendenza esterna è quella di mettere in conflitto. E questo purtroppo è un po' la tendenza del linguaggio dei diritti. Sappiamo bene che la moltiplicazione dei diritti crea moltiplicazione dei conflitti. Questa pluriappartenenza individuale, tra l'altro, è ormai in qualche modo un dato sempre più rilevante, no? Soprattutto se parliamo di migranti, parliamo di transmigrazione, di processi di globalizzazione, di identità meticcia, cioè tutta questa terminologia che fa riferimento proprio spesso al fatto che le identità non sono qualcosa di fisso, ma sono in trasformazione, che ogni persona è formata da diverse pressioni, diverse componenti e così. Ora, è proprio questa pluriappartenenza e questo bisogno di conciliare le diverse appartenenze che mette sempre di più in primo piano la persona, no? Perché piuttosto che il gruppo, piuttosto che l'appartenenza, piuttosto che la comunità. Però la persona... Se noi parliamo semplicemente di autonomia personale, ecco, siamo di fronte a un altro di quei concetti che richiederebbe un paio, come un'altra lezione. Ma brevemente, diciamo che il sostegno alla persona deve partire da un presupposto che vede un'autonomia, una capacità di scelta in proprio come un obiettivo, non come un dato. E questo fa parte anche ampiamente dell'elaborazione femminista, soprattutto nell'ambito della bioetica, ma anche del pluralismo normativo, quindi lo studio di una nozione di autonomia che faccia maggior riferimento ad un soggetto situato che non ad un soggetto astratto, quindi una rielaborazione delle nozioni di autonomia e di responsabilità individuale, nel senso di una maggiore attenzione ai vincoli concreti che vengono nelle singole situazioni, agli interessati, alla loro rappresentazione da parte dei soggetti coinvolti, quindi non solo i vincoli tali quali sono, ma in quel modo sono vissuti, ai processi che costruiscono l'autonomia e la percezione della propria autonomia e ai fattori che la ostacolano, che da un punto di vista, diciamo, di politica del diritto significa anche la predisposizione di procedure di verifica della volontà del soggetto, di sostegno alla formazione della volontà del soggetto e di sostegno all'elaborazione di una scelta, diciamo, il più possibile svincolata da costrizioni dirette esterne. nel lessico dei diritti ciò ovviamente non si può tradurre soltanto in una maggiore garanzia dei diritti di libertà, dei diritti civili, dei diritti di libertà personale, ma si traduce anche in un ruolo, in un incremento del ruolo dei diritti economico-sociali, e quindi no, di quei diritti che danno delle possibilità reali alle persone, no? Parlo del lavoro, dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria, delle possibilità reali alle persone di sottrarsi a delle situazioni, a delle regole, o magari anche di restarci, ma con un'altra forza, con un'altra capacità di mediazione. Quindi diritti civili, ma in gran parte diritti sociali, che quindi assumono un ruolo fondamentale non solo in termini di giustizia, di cittadinanza, di convivenza, ma anche proprio in termini di sostegno alla libertà individuale, e questo in particolare nel contesto delle donne e dell'immigrazione femminile. Quindi istruzione, assistenza medica. Appunto, sostegno alle persone nella prospettiva di poter fare delle scelte che non siano appunto dipendenti dalla famiglia, dalla comunità di appartenenza. Questo significa anche canali di partecipazione politica femminile, no? Questo è un altro tema particolarmente noto. Significa quindi incentivare in qualche modo la partecipazione delle donne, migranti o discendenti di migranti. Perché appunto è la strada per uscire da quella specie di omogeneizzazione che si fa dall'esterno delle comunità, no? Cioè siamo i musulmani, no? I musulmani che sembrano una specie di un'unica entità, e chiaramente sono... Non solo, ma il problema è che molto spesso queste comunità, queste associazioni che vengono intese come rappresentative della comunità, sono rappresentate pubblicamente, quindi sono interlocutori delle istituzioni, delle persone che, dei maschi, e che tendenzialmente non rispecchiano gli interessi di tutte le persone. No, questo appunto è il grande problema poi dei diritti di gruppo e così via, no? Quindi trovare dei canali di partecipazione autonoma che possono andare dalle scuole a tutti, diciamo, i luoghi in cui si incontrano le donne, di partecipazione autonoma femminile. Quindi in questo senso potrebbe parlare di diritti politici anche in senso molto largo. Ci sono poi degli altri problemi concreti che forse salterò, perché vorrei dire ancora due cose sull'eguaglianza. Comunque, diciamo, pensiamo solo, faccio solo l'esempio della poligamia, no? Un esempio che conoscete forse. No? Il problema diciamo che ci sono molte situazioni in cui l'applicazione di diritti intanto è soggetta ad una differente interpretazione dello stesso diritto, cosa che è innegabile nel contesto internazionale, ma si ritrova anche nei contesti nazionali. E poi l'applicazione, l'attuazione di questi diritti porta a delle conseguenze non sempre sicuramente, come dire, diverse da quello che si voleva raggiungere. Pensate appunto al problema della poligamia, no? Al problema del matrimonio. La poligamia naturalmente non è contraria all'eguaglianza tra i sessi, è vietata da molte legislazioni nazionali, però esiste in qualche modo un diritto di costituire una famiglia, e immediatamente ci si ritrova di fronte a che questo diritto di costituire una famiglia, beh, è una famiglia intesa come la intendiamo noi, e cioè con una moglie e un marito e figli di una moglie e di un marito. Se il ricongiungimento familiare e tutti i diritti sociali che ne derivano, e sempre di più ne derivano, no, vista la restrizione che è in atto, è ammesso solo per una moglie, le altre mogli si ritroveranno intanto sono persone che si sono legittimamente magari sposate nel paese in cui abitavano, quindi hanno delle aspettative in qualche modo tutto legittimo. E si ritrovano, ma anche separate dai figli, che possono andare nel paese di immigrazione come figli del padre. Infatti ci sono forse, appunto, Maria Rosa sa anche meglio di me, ci sono delle vari stati europei hanno trovato delle soluzioni, tipo giurisprudenziale, legislativa, a queste situazioni. Così, vabbè, il caso dello Shadow non ne parliamo neanche, ma anche il caso delle mutilazioni genitali femminili. No? Non è evidente che siamo di fronte ad una pratica di profonda lesione dei diritti, stiamo parlando di minori e così via, ma dal punto di vista della loro criminalizzazione intanto sorgono dei problemi rispetto all'elemento soggettivo, no? Questi genitori non vogliono infliggere un male alla bambina. Ma il problema è soprattutto che se la reclusione dei genitori di bambine che tutto sommato sotto altri aspetti si sono mostrati del tutto adeguati a crescere queste bambine e magari fratelli e sorelle, beh, insomma, metterli in carcere può creare degli ulteriori problemi a queste bambine e a queste bambine. Infatti adesso io non è che abbia dei dati, ma mi sembra che anche la legge italiana del 2006, mi sembra, non abbia avuto una grande attuazione. Insomma, cioè non ci siano stati molti casi nei tribunali dei perseguiti in base a questa legge, forse uno. E però penso che invece continuino ad esserci, anche se magari fatte all'estero interventi di questo tipo. Vabbè, comunque, insomma, sorvolando su questi casi, quello che in generale però mi interessava sottolineare era che esiste un'estrema variabilità di situazioni, sia dal punto di vista soggettivo, sia dal punto di vista appunto degli effetti degli interventi giuridici, e che questa estrema variabilità della situazione non può che, dal mio punto di vista, suggerire di cercare volta per volta dei percorsi che accertino gli interessi e le volontà delle persone coinvolte, di evitare delle contrapposizioni tra etiche religiose, mettiamo etiche diverse, e di evitare l'applicazione di principi e norme senza considerare quelle che sono le conseguenze sulle persone. Quindi questo tipo di approccio suggerisce di trovare dei percorsi interni alle culture per affrontare anche delle pratiche che sono vissute come discriminatorie e oppressive, dei percorsi che non richiedano delle rotture definitive. Percorsi peraltro spesso individuati dalle stesse donne interessate. Ora, e percorsi che fanno riferimento appunto a quest'idea di soggetto radicato, soggetto in qualche modo situato e di un'autonomia come, obiettivo. Bene. Adesso brevemente l'eguaglianza, visto che avevo queste tre parole dure lì, eguaglianza. In che modo, diciamo, l'eguaglianza? Ho detto che mi interessava anche molto l'intervento di Giuditta Brunelli, perché appunto questa idea di costituzionalizzare la differenza, vorrei capire come la pensava rispetto a quali articoli, rispetto a quali anni. Vabbè, comunque io farò un discorso molto più generale. Diciamo, in che modo l'eguaglianza appunto sapete che come diritti, anzi più dei diritti, è stato uno dei concetti più attaccati, discussi, riformulati, soprattutto diciamo l'eguaglianza formale, l'eguaglianza come identità di trattamento, attaccata perché da un lato si mette in luce la discriminazione che comporta l'identità di trattamento di situazioni che identiche non sono, che sono diverse, e dall'altro lato invece anche l'assimilazione che comporta la richiesta a delle persone diverse dal modello dell'eguaglianza, no? Di adeguarsi a un certo tipo di comportamenti, valori, stili di vita, che in qualche modo appunto sono necessari per diventare uguali a qualcun altro. Quindi l'eguaglianza, da questo punto di vista, sì, non è l'eguaglianza del 1789, per intenso, ma l'eguaglianza di fronte alla legge, certamente non è adeguata per affrontare, almeno non è sufficiente, per affrontare questo tipo di situazioni che abbiamo brevemente considerato. Ora, piccolissima premessa, io parlo dell'eguaglianza in senso normativo, naturalmente, no? Non di un'eguaglianza descrittiva, di un'eguaglianza come, diciamo, paradigmi di riferimento della politica del diritto, in politica del diritto. Eguaglianza ai diritti, tra l'altro, insomma, e anche in modo molto superficiale, ma sinteticamente in questo contesto. Allora, quindi questa nozione di eguaglianza come, diciamo, come identità di trattamento, eguaglianza che diciamo nega le differenze, no? L'eguaglianza appunto nella dichiarazione del 1789 è proprio un'eguaglianza che si crea negando la rilevanza delle appartenenze nello spazio pubblico. E questo è poi ancora in qualche modo stato per molto tempo il modello francese. Le appartenenze collettive non sono pubblicamente rilevanti, quindi è proprio un'eguaglianza, infatti poi si sviluppa come clausole antidiscriminatorie, sesso, così via, perché non sono, le differenze non sono rilevanti pubblicamente. Ecco, questo tipo di eguaglianza, quindi che si, diciamo, traduce in un'irrilevanza delle differenze, è insufficiente. Ma è insufficiente anche un'eguaglianza intesa come secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, da quella che viene comunemente detta eguaglianza sostanziale. Perché? Perché in questo caso le differenze sono viste come elementi da colmare, sono viste come produzioni di diseguaglianze e quindi con una connotazione negativa. La più chiara concettualizzazione di questa cosa è stata data da Luigi Ferraioli, ed ecco qua, proprio nel momento in cui ci arriva Tamar. Fantastica. Va bene. Allora, questo dibattito sull'eguaglianza... La stalla fuori? No, ma come? Che no, sei... È molto bellissimo. Carino. Va bene. Comunque, guarda, sei arrivato proprio verso la fine e stavo riprendendo appunto l'idea di eguaglianza. Cosa che potresti fare meglio di me, ma insomma, l'eguaglianza è... diciamo aperta alle differenze, perché avendo parlato di diritti, di appartenenza, e adesso siamo arrivati all'eguaglianza. Allora, il dibattito sull'eguaglianza non si è fermato alla decostruzione di questa nozione, ma in Italia appunto sono stati soprattutto Luigi Ferraioli e Letizia Gianformaggio a dare delle proposte, ad alimentare un dibattito su una riformulazione di un'eguaglianza che potesse tenere conto delle appartenenze differenze, potremmo dire delle appartenenze che fanno differenza, appartenenze in qualche modo differenze costitutive della persona. Allora, come si può formulare questo diverso modo di considerare le differenze da parte dell'eguaglianza, differenze e appartenenze? Beh, appunto l'idea è di individuare una nozione di eguaglianza che può, io non ne sono convinta, ma può essere ricondotta comunque ad un'eguaglianza sostanziale, che valuti positivamente le differenze invece che valutarle negativamente. Una nozione che implica che le differenze individuali non sono più ignorate né considerate negative in quanto produttive di diseguaglianze economiche e sociali, ma sono caratteri in qualche modo da difendere o comunque da considerare rilevanti. Quindi questa tipo di eguaglianza non si traduce in trattamenti speciali che in alcuni casi possono richiedere delle deroghe all'eguaglianza formale, ma semplicemente in trattamenti differenziati, che si fondano su una visione plurale della società, no? In cui non esiste un modello normale e altri speciali che devono essere eguagliati, ma esiste semplicemente una differenziazione. Questa visione dell'eguaglianza non ha ancora, benché appunto in Italia sia già stata da parecchio tempo introdotta nella letteratura, però non ha ancora una legittimazione diffusa, è una visione che deve entrare nella cultura, direi, prima ancora che nel diritto, però appunto la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea mette, e questo io l'avevo chiesto, l'avevo facciato quando era venuta a Milano, l'articolo 22, cioè l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica, nel titolo dedicato all'eguaglianza, e questo è già indicativo, cioè sotto eguaglianza si mette la tutela della differenza, e questo già, secondo me, significa andare in questa direzione, cioè quindi non negare più la capacità dell'eguaglianza di tradurre delle politiche in qualche modo che rendano conto, che valorizzino la differenza, ma un'eguaglianza che sia in qualche modo, potremmo dire, inclusiva, ecco, potremmo chiamarla inclusiva. Va bene, quello che questa idea di eguaglianza può significare, forse magari ne parliamo nel dibattito, senz'altro l'ambito, almeno dal punto di vista delle appartenenze culturali e religiose, uno degli ambiti più toccati è quello dei diritti economico-sociali, no? Per cui attuazione differenziata dei servizi sociali. Però può anche significare una diversa reazione, e questo però è l'ambito più problematico, una reazione diversa allo stesso comportamento a seconda di chi lo tiene. Può significare comunque, diciamo, un'attuazione dei diritti differenziata in ragione di caratteristiche considerate rilevanti dai destinatari. È chiaro che quest'idea di eguaglianza, io ho cominciato appunto parlando dei diritti. Parlando dei diritti e del fatto che, secondo me, i diritti hanno ancora una funzione, e purtroppo in Italia non solo hanno una funzione per le donne nel mondo, non solo hanno una funzione per le donne, diciamo, che vivono in situazioni maggiormente oppressive dal punto di vista comunitario e familiare, ma hanno una funzione anche, adesso mi sembra di più per noi, italiano, per le situazioni che stiamo vivendo, che ritornando un po' a quello che si diceva all'inizio, c'è questo problema, io vedo nella scuola dei miei figli e nell'università dove lavoro dei segnali non bellissimi. Comunque questo poi magari ne ripariamo. Però insomma l'idea è che queste tre visioni dell'eguaglianza, se noi dobbiamo ancora in qualche modo affidarci ai diritti, anche se i diritti non bastano, anche se i diritti possono essere sbagliati, anche se i diritti vanno riformulati come diritti delle donne e non come diritti degli uomini, queste tre visioni dell'eguaglianza devono necessariamente sovrapporsi, non essere messe in conflitto, non essere messe come alternative, ma caso per caso confluire in una definizione dei diritti che sia particolarmente adeguata a quel soggetto, che abbiamo detto in qualche modo contestualizzato, che deriva dalla tradizione. Bene, io a questo punto mi fermerei e poi se volete. Bravissima, io sono, mi è piaciuto molto, perché mi sembra che hai toccato bene tutti questi punti che hai riproposta. Io nel fare la brevissima introduzione avevo citato il caso di Oleb de Gouges come il primo gradino, no, appunto, in cui si viene constatando la contraddizione, i dilemmi impliciti in questa unione di proclamazione dell'universalità dei diritti umani e però della sovranità della nazione, dell'appartenenza alla sovranità della nazione, e quindi della definizione di quel concetto di cittadinanza legata alla sovranità della nazione che poi verrà sviluppandosi in tutti gli anni successivi e di cui gli elementi che tu evidenziavi, cioè il problema dei migranti, problema contemporaneo, cioè ha fatto esplodere, no? Proprio il guscio della cittadinanza come l'elemento su cui basare, cercando di allargarne i limiti, cercando di forzarne poi, no, le barriere interne e così via. Io infatti avevo in mente il tuo lavoro proprio appunto sui migranti la questione dei conflitti derivanti dalle appartenenze, proprio come la... Io nella mia testa, ma penso che non sia solo una mia soggettiva impressione, cioè proprio il discorso delle donne è la prima segnalazione di questa difficoltà inerente a questa tradizione politica che poi oggi è esplosa, sta di fronte agli occhi di tutti, e tutti gli esempi che tu venivi facendo sono assolutamente fondamentali. Mi veniva vorrei sentire molto anche altre voci. Un attimo solo mi vorrei soffermare sul discorso delle mutilazioni genitali, appunto delle appartenenze, prima ti interrompevo, dicevo questo discorso delle mutilazioni dei genitali femminili o delle modificazioni dei genitali femminili è un discorso molto interessante e molto importante dal punto di vista dell'appartenenza, perché in effetti anche ancora una volta noi abbiamo ospitato mai parecchio tempo fa un dibattito su questo, in cui abbiamo invitato appunto il medico fiorentino Abdul Kabir, mi sembra sia, che aveva il medico somalo, però che aveva proposto di fare la sunna simbolica, cioè punzecchiamento, no? Cioè l'avversamento di una goccia di sangue come sostitutivo, no? E allora abbiamo organizzato in un'occasione di quella, così invitando anche delle donne somale residenti qua a Roma e così via. E uno degli elementi che era emerso in quella circostanza e che mi ha fatto molto riflettere, poi devo dire una reazione molto vivace e molto orgogliosa da parte di alcune donne rispetto ad alcune affermazioni fatte da noi, forse non io, ma insomma altri a cui avrei potuto essere anche io, in cui appunto si diceva, qualcuno valutava la mutilazione, l'asportazione del clitoride quindi la famosa... famosa mutilazione faraonica o addirittura anche quella più delimitata che si chiama in un altro modo che adesso non mi ricordo, veniva valutata da una delle presenti come una inibizione del piacere femminile e quindi in fondo come una negazione della possibilità per la sessualità femminile di esprimersi. Sì. Le donne si sono molto seccate e hanno risposto in modo molto aggressivo. Ma questi l'hanno già visto in Francia. Non volevano sentirne parlare di quello, come dire, voi avete un modello di piacere femminile, insomma, che non è quello che abbiamo noi, e così. No, questo per dire, però l'altro elemento invece molto interessante che era emerso in quella occasione, e mi sono sempre riproposta di pensarci meglio, ma non mi è mai capitato poi di trovare un approfondimento, è che in quel caso, nel caso per esempio della mutilazione o della modificazione dei genitali femminili, Il corpo della sposa e della donna, della bambina che poi diventerà sposa, è il corpo che suggella l'appartenenza ad una nazione. Cioè, la nazione etiope o somala, no? Sì, certo per lei, ma anche per lo sposo. Cioè, se lo sposo non sposa, non ha in sposa, no? Non prende in sposa una ragazza, una donna che abbia avuto quel tipo di modificazione, non appartiene alla nazione. Allora, questo è un discorso molto complicato, che però si lega con i problemi originari di cui abbiamo parlato tante volte, cioè che cosa questo legame dei diritti umani, no? Dei diritti dell'uomo, che però storicamente si sono legati a delle forme molto specifiche di appartenenza nazionale, che nel nostro caso non è legata alla modificazione dei genitali femminili, ma è legata ad altre fenomenologie storiche, no? E non astratte, ma molto, anche se si presentano come, no, non come tali. Ecco. Questo problema del, appunto, ero sicura che infatti chiedendoti di venire tu avresti poi messo al centro della tua, insomma, della tua argomentazione proprio questo, no? Cioè come si fa appunto a prescindere da questo? Cioè come si fa a non rendere questo problema dell'appartenenza appunto un elemento, come dire, chiave, insomma, una dimensione chiave. Questo era uno dei punti. Ecco, l'altra cosa che ti volevo chiedere a proposito di soggetto situato, che naturalmente io sono molto in sintonia con cose che mi interessano a me, ecco, che io penso che di questo soggetto situato appunto faccia parte appunto la sessualità come una delle sue capability, no? No, io in questo mi sentirei di sottoscrivere, in cui però questa capability della sessualità è una cosa, ancora una volta, che non è semplicemente che riguarda la singolarità del singolo soggetto, no? Cioè perché questo soggetto situato è tale e sviluppa e viene a prendere coscienza delle sue capabilities perché sta in un sistema di relazioni. Ecco, questo è un po' il discorso. Credo che questa, la dimensione relazionale, sia poi la cosa che sfugge a questa diciamo l'aporia compresa tra gruppale, comunitario o individuale, gruppale o singolare, no? Cioè, credo che ho scelto appartenenza, ecco, infatti, in gruppi, cioè. E l'altra cosa, e qui finisco, secondo me nella Costituzione italiana c'è una parolina che in qualche modo è un po' una chiave che va in questa direzione, che consente anche di evitare un po' le secche in cui si impantanano altri tipi, ed è la parolina persona, perché la persona, infatti non è un caso, nella Costituzione italiana non c'è il cittadino o l'individuo, nella Costituzione italiana, e sappiamo per vari motivi, storici, perché i soggetti che l'hanno concepita erano soggetti diversi e conflittuali fra di loro e quindi hanno, come dire, dato vita ad un testo in cui questo inserimento del concetto di persona consente di vederci dietro appunto questo sistema. Perché la persona è una relazione, sì, e implica il riconoscimento. No? Passaggio dall'individuo alla persona. Esattamente. Implica il riconoscimento, un meccanismo relazionale che quindi in qualche misura